sono stati dei grandi operatori commerciali che si sono rimboccati le maniche, si sono dati da fare, non si sono pianti addosso e oggi diciamo che la nostra attività è quasi tornata alla normalità. Ci rimane il grosso rammarico che finanziamenti, come ben sapete, ce ne sono pochi. Sappiamo che anche quei pochi che ci sono in realtà non sono stati ancora neanche dati alle imprese che hanno lavorato sul territorio. È vero, perché per la prima fase emergenziale, che è proprio quella più brutta, diciamo, i primi 10 giorni, ci sono stati promessi per ora 300.000 euro su un totale di 1,8 per quanto riguarda il mio comune, ma altri comuni hanno intorno a 1,5 milioni, 1,3 milioni, insomma la cifra grosso modo è questa. Ci sono state promesse 300.000 euro e per ora non sono state ancora liquidate. Per quanto riguarda le somme urgenze, che sono l'altro capitolo, io per esempio come comune ho ricevuto 2.400.000 euro promessi, anche questi non ancora arrivati. Quindi voi praticamente vi siete ricostruiti il paese da soli, cioè letteralmente? Guardi, noi dobbiamo ringraziare le ditte che stanno lavorando e hanno lavorato senza chiedere una lira. E questa è la cosa grave, che purtroppo questa lentezza della macchina burocratica strozza le imprese. Noi siamo anche piccoli comuni, quindi non è che abbiamo un grosso plafond a disposizione. E quindi io ho delle ditte sul territorio che mi hanno fatto i lavori ad oggi, a 6 mesi dall'alluvione, 6-7 mesi dall'alluvione, completamente gratuito. E magari era gente del posto che aveva già subito un danno? Bravissima, bravissima. Tante era gente del posto che avevano subito dei danni, altri ho un'impresa che mi arriva dalla Sardegna, che mi sono sentito in dovere di gratificare con un altro lavoro perché sono stati encomiabili, hanno lavorato giorno, notte, ci hanno tirato fuori letteralmente dal fango e ad oggi queste persone non hanno ancora ricevuto una lira e sono qua che lavorano per noi. Quindi è difficile fare il sindaco in una situazione del genere? Non è difficile fare il sindaco, è terribile in questi momenti, ma quello che più mi addolora è vedere i privati cittadini che hanno ricevuto danni anche loro, che ad oggi proprio zero lire, ci sono quelli che le macchine sono state distrutte, quelli che hanno avuto le case danneggiate, non c'è stata nemmeno la riduzione dell'IMU mentre abbiamo visto che sul terremoto subito sono intervenuti, noi l'avevamo richiesto, invece non ci è stato concesso, quindi anche un po' un grido di presa d'atto di una disparità tra territori dell'Italia, cioè siamo tutti italiani, però da una parte si lavora in una maniera, dall'altra si lavora in un altro modo. Insomma. È tutto per oggi, Italia in Controluce torna domani mattina alle 6:30.